radiation, radiation. Radioactivity. buonasera e bentornati a una nuova puntata di Metal Zone, ancora mercoledì, sempre nel segno del metal, sempre nel segno di Radiation. Questa sera puntata spin-off ricca di sorprese, visto che insomma il tema me lo propone ampiamente. Questa sera voglio e devo assolutamente parlare dei Led Zeppelin, perché voglio ricordare che 2 giorni fa è stato insomma anche il compleanno dello scomparso Jimmy Page ormai, quindi era dovuto fare prima o poi e onorare questa band che viene riconosciuta come la band progenitrice dell'heavy metal, in particolar modo in un album che poi andremo ad analizzare a breve. Partiamo dagli albori. Sono una band rock che si forma a Londra nel 1968. Il gruppo consiste nel chitarrista Jimmy Page, dal cantante Robert Plant, dal bassista e tastierista John Paul Jones e il batterista John Bonham. Saranno molto orientati verso i temi del blues e della psichedelia nei loro album iniziali, e cominciano il loro, insomma, la loro avventura chiamandosi, dopo aver cambiato il loro nome dagli New Yardbirds ai Led Zeppelin, firmano il loro, insomma, primo contratto vero e proprio con l'allora insomma casa editrice più importante, ossia l'Atlantic Records. Questa formazione sarà la prima, come ho detto, a calcare un po' gli studi e le orecchie di tutti, perché cominciano già un tour dove loro sono conosciuti come The New Yardbirds, come ho detto. Questo tour verrà veramente accolto in maniera positivissima e rilasceranno questo loro album di debutto dal titolo Led Zeppelin il 12 gennaio del 1969. Questo album arriva subito alla posizione numero 10 della Billboard chart e viene rilasciata anche insomma in Inghilterra, dove raggiunge la posizione numero 6 nel 31 di marzo. Sarà un album con dei riff memorabili, blues psichedelico, groovy, qualcosa veramente di mai ascoltato prima, ed è insomma ciò che andremo ad ascoltare adesso. Andremo ad ascoltare titoli come Babe, I'm Gonna Leave You, oppure You Shook Me, Dazed and Confused, insomma, li lascio a voi. Benvenuti nella Metal Zone, Led Zeppelin. I can hear it calling me back home. from this place. I got a picture, yeah. Oh, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby. Oh, come here, hear it call. Oh, woman. Woman, I know feels good to have you back again, and I know that one day, baby, it's over. Will it grow? Yes, it is. That's when it's calling me back

questa è musica che ha 7000 sfaccettature come diamanti e riflettono veramente tantissimo nelle orecchie, perché sono sempre qualcosa di strano da descrivere, perché ascoltarli forse non attraverso le cuffie come faccio di solito, ma ascoltare i Led Zeppelin attraverso un bell'impiantone come questo che abbiamo nella nostra sede radioattiva o nei vostri impiantoni, sicuramente state convenendo con me che un po' abbiamo fatto lo stesso viaggio insieme. Però non ci fermiamo qui, perché questo è solo il primo anno e i Led Zeppelin non solo completano 4 tour sia in America che in Inghilterra, tutti tour dove suonano alla stragrande, rilasciano anche il loro secondo album dal titolo Led Zeppelin Number 2. Questo album sarà un album heavy, hard, brutale e diretto, quindi qualcosa di chiaramente sconvolgente per gli anni. Ricordo che stiamo parlando del 1969 ed è per Steve Waxman, Led Zeppelin Number 2 è il punto di partenza per l'heavy metal. Andiamo ad ascoltare dei pezzi che non hanno veramente tempo. Metal Zone, Led Zeppelin. Give you my love. I'm gonna give you my love. questo era Led Zeppelin Number 2. Fatto sta che non riescono ad avere una, insomma, un'entità che merita, perché fanno 7 miliardi di tour, non si capisce veramente dove vogliono arrivare. Rifanno di nuovo i loro singoli perché vogliono mantenere un certo stile aggressivo, quindi noi sentiremo questi pezzi migliorati anno dopo anno. Ma soprattutto, parlando di Led Zeppelin, ho evocato, insomma, un ospite graditissimo a Radio Action. E di nuovo ai microfoni di Metal Zone, Davide Viola. Gianni, ma che mi combini? Io stavo per i fatti miei a mangiarmene un sacco di cose strane, un sacco di cose buone. Tu mi mandi questo messaggio che fai Led Zeppelin, ho lasciato tutti a tavola e sto corso da te. Comunque, buonasera a tutti. Niente, sono sempre io, non so a chi sono mancato, penso a nessuno, comunque va bene così. No, invece sarai mancato a tantissimi, la tua voce è sempre gradita. A me mi hanno fatto, ho detto, ma chi è quello che, ma non viene più? Meno male. Meno male. Anzi, spero che tu sia stato comunque alla grande in queste feste. Sì. Yeah. Alla grande dipende, cioè, che vuol dire? In qualsiasi senso, anche musicalmente, magari hai visto qualche concerto? No, no, a livello alimentare, vuoi dire? No, a livello alimentare, preferisco sapere se magari hai visto qualche esibizione particolare, qualcosa. No, più che altro sono stato un pochino in giro, ho visto dei gruppi locali, sono stato un pochino con Frank, ma nulla di che, anche perché ho lavorato quasi per tutti i giorni. Mi sono preso soltanto i giorni di festa. Com'è triste sta cosa, detta così. E quindi ci voleva questa serata Radio Action, dai. Sì, ci voleva, come no. Secondo tuo spin-off, come ti senti, Anni? Dillo. Ah, Madonna, Gianni, non mi dici così. Dai, ritorniamo seri. Se no mi evochi quello che mi è successo oggi. No, lasciamo perdere. Anche se, guarda, ti farò una sorpresa, sì. Forse cancellerò qualche nome e lo vedrai sicuramente su Facebook, perché merita, io sono morto quando l'ho letto, non sveliamo nulla. Però dico che nel 1970 Page e Plant si ritirano a Bron Ireaur, che è un loro cottage, proprio in una posizione isolatissima in Galles, per registrare il loro terzo album, che chiameranno Led Zeppelin Number 3. Sarà del 70, hai detto 70? 1970, preciso. Cioè, due anni dopo la formazione del gruppo, in sostanza. Esattamente. Già stanno al terzo album. E già hanno fatto due album, di cui uno al numero uno, cioè, insomma, delle classifiche, vabbè, lasciamo perdere. Un altro livello. Hanno definito gli schemi del heavy metal, questo è importantissimo ricordarlo, perché questi sono i gruppi da cui attinge in effetti tutto il genere successivamente. Ragazzi, 1970 si registrava ancora in modo analogico o a incisione, non so. Mangianastro e vinile proprio. Sì. E ispirato e influenzato un po' dalla musica celtica, perché giustamente in Galles il panorama rende visibili le fatine e altre cosucce, crea una canzone che poi rimarrà uno standard. Quando uno dice Led Zeppelin, un po' come Hall of Talob, insomma, Immigrant Song. Sì. Tu te la ricordi Immigrant Song nel film School of Rock con Jack Black? Vedi, tutti ricordano. Quella è la colonna sonora. Però nessuno alla fine sa. Ma di chi è questa canzone? Di chi è questa? Tutti i remix, cose. In realtà sono i Led Zeppelin. 1970, bellissimo, ragazzi. Ci andiamo ad ascoltare un bel po' di pezzi da questo album, perché poi, per esempio, Tangerine è un altro pezzo che amo ricordare. Insomma, mettere tutto l'album, però vabbè. Ci rilassiamo ancora un po' con i Led Zeppelin. Davide Amon, Metal Zone. Drive our ships to new land. day. I only find it slips away today. Does it bring me pain? Living reflection from a dream. I was her love, she was my queen. And now a thousand years between. Thinking how it used to be. Does she still remember times like these? To think of us again, and I do. Ronnie Our Stomp, ci siamo catapultati un attimo in terre fredde e magiche come visto quelle del Galles. Bella l'influenza folk che si sentiva alla fine del pezzo. Alla grande, influenzatissimi specialmente dal luogo e proprio alla ricerca di altri luoghi. Durante insomma gli anni tra il 1971 e il 1975 raggiungono un titolo che secondo me viene dato proprio a dovere, perché vengono definiti the biggest band in the world. Questa è un'affermazione fortissima, però alla base di questa affermazione c'è un album che secondo me è da un po' analizzare, perché racchiude un po' tutti gli eccessi di cui insomma mostrano nei loro live, nei tour, anche a livello personale, perché girano anche delle leggende su cose strane che facevano, tipo arrivare nelle suite degli hotel e sfasciare tutto, oppure entrare sempre negli hotel con le motociclette, insomma cose abbastanza estreme per l'epoca. Però il risultato di questo è un album che insomma viene definito Led Zeppelin Number 4. L'hai detto? L'ho detto. L'ho detto. E se dico Black Dog, mi ricorda una storiella, insomma, che lessi su uno dei magazine all'epoca, quando io ero undicenne, dodicenne. Sì. Mi approcciavo un po' a questo tipo di musica e c'era la possibilità di leggere all'epoca, non di cercare in internet, ma di leggere. Quindi ricordarsi anche bene quello che si leggeva. E lessi che Black Dog, proprio per la registrazione di Black Dog, nello specifico la parte della batteria, insomma loro si accanivano così tanto perché cercavano una soluzione per rendere la batteria di Bonham il più cupa possibile. Sì. Questi che fanno? No, perché questa non la so. Questi cosa combinano? Dove c'è lo studio, insomma dove stanno registrando, Robert Plant decide, no, basta, ho deciso, ho trovato la soluzione. Scavano un fosso, un fosso di 3 metri, adatto a contenere la batteria. Calano Jason Bonham al suo interno e insomma il risultato è questo. Hey baby, when you walk that way, watch honey drip. e torniamo. Stavo facendo una ricerca riguardo a Robert Plant. Sì. E è uscita sta cosa che è bellissima. Raccontacela. Bellissima per chi come me o come te qualcun altro ha avuto il piacere di suonare e di studiare un pochettino pure qualche pezzo dei Led Zeppelin quando ancora non esisteva internet. Quindi ti mettevi lì con la musicassetta, andavi avanti e indietro per studiare i pezzi. E Robert Plant in un'intervista ha dichiarato, cito testualmente, il suono che sentivo uscire da quelle casse mentre cantavo era di gran lunga meglio di qualsiasi figa d'Inghilterra. Era così sessuale, osceno, aveva così tanto potere, era devastante. Questo ti fa capire come veramente la musica veniva sentita, che le leggende che si raccontano, che si giocavano e tutto, vabbè, ci sta, ma era secondo me un giocarsi di musica veramente, perché alla fine la sentivano e la trasmettevano in un modo incredibile. E ce la stanno trasmettendo, perché davvero io non vorrei staccare. Non che ci stiamo drogando, attenzione. Guarda, questa canzone dura 7 minuti, adesso a me sembra un peccato staccarla, però devo farne partire assolutamente un'altra. Abbiamo noi stavamo ragionando, ma non è che la scelta sia così tanto difficile, perché stiamo parlando di un album, di una canzone. Chiedo scusa, sia Stairway to Heaven. Allora, un attimo. La canzone più famosa. Allora, un attimo. È forse la prima volta per me in assoluto, durante una mia rubrica ufficiale, lancio Stairway to Heaven per un tributo ai Led Zeppelin. Io sono quasi onorato di farlo con te, Davide. Gianni, cioè, non ti posso dire niente di questo pezzo, perché ci sono cresciuto. Ci siamo fatti le nottate pure con Ciccio a studiare il riff, a studiare l'arpeggio. È forse il pezzo più ambiguo che tu abbia mai ascoltato finora. Forse è stato uno dei pezzi pure più copiato. Addirittura in queste sere stavo cercando un pochettino su YouTube e ho visto addirittura un gruppo giapponese che lo rifaceva in un modo che sì, era simpatico, però che non ha nulla a che vedere con l'atmosfera e le note che ti fanno vibrare i Led Zeppelin. Sì, tu dicevi un pezzo ambiguo. Sì, sì, perché no, mi rifaccio un po' anche al testo, perché sai che adoro analizzare i testi delle canzoni che mi piacciono di più. In questo brano viene proprio esplicitamente detto che le parole hanno due significati. Questo perché ci sono tanti, insomma, esperimenti fatti su questo singolo, essendo questo un vinile all'inizio, quindi veniva passato al contrario. Se tu lo passi al contrario, insomma, sì, riesci, sì, ad ascoltare dei messaggi che non sono proprio uguali a quelli che tu, insomma, ti aspetteresti. Tipo, tu che cosa hai tirato fuori? Perché io questa parte io qua ho letto non... un sacco di traduzioni, addirittura ci sono veramente un casino di interpretazioni. Però quelli che più, insomma, fanno paura sono i riferimenti veri alla Satana, cose del genere. Perché è il concetto stesso della scala, no? Se Stairway to Heaven messa nel verso giusto è Stairway to Heaven, al contrario dovrebbe essere una Stairway to Hell, no? Quindi le parole hanno due significati. Questa cosa, no, veniva anche usata da John Lennon, è una cosa secondo me prettamente inglese, ma lo voglio dire e affermare questa sera, lo facevano solo negli studi inglesi, lo facevano apposta, tipo mascherare Number 9, la famosa Number 9, sì, che messa al contrario ti dice turn me on dead man. Insomma, anche io se dico turn me on dead man, allora al contrario uscirà Number 9. È assurdo. E quindi secondo me non ci resta che salire. Gianni, tu dobbiamo salire per forza. Tu che cosa immagini se lanci sta canzone? Cioè, ascoltando. No, io ho quasi paura di, infatti aspetto un altro minutino perché c'è sempre Wendy. No, di se ripensi all'introduzione, a tutto. Sì. C'hai un'immagine, un qualche cosa che ti si forma davanti agli occhi? Sì, io la prima cosa che vedo è questa figura di questa donna di cui parla Robert Plant nel testo. Questa regina d'inverno. La regina dell'inverno, proprio adatta. Ma 10 anni fa, ripeto, era il compleanno di Jimmy Page. Non vorrei. Ci sta qualche altro. C'è qualche influenza, secondo me. Gianni, c'è tutto un motivo, è tutto scritto. Io sto fremendo. Io e la mia R Moscia stiamo fremendo. Dai, la lanciamo. Stairway to Heaven, Led Zeppelin, Metal Zone. Dream. E così finisce Stairway to Heaven, il loro inno praticamente, sarà la canzone più famosa e più ricordata, e che chiaramente vi farà meritare il titolo di The Biggest Band in the World. Ma non si fermeranno, perché springtime of my loving, the second season I am to know. You are the sunlight in my growing, so little warmth I've felt before. It isn't hard to feel me glow. I watch the fire that grew so low. We'll be right back. the wind, their eyes fall off. This is the wonder of devotion. I see the torch we all must hold. This is the mystery of the closing quotient. E su Drain Song vi faccio un recap, perché dovete sapere che ho parlato finora. Anch'io ho parlato finora. Ma è stato bellissimo. Vabbè, torniamo indietro. Dicevo, questa era Drain Song, una canzone da un album veramente interessante. Dicevo, non si fermano, perché rilasciano nel 1975 un doppio album, Physical Graffiti, sì. Sotto una nuova etichetta, ossia la Swan Song. Avrà anche questo un grande successo, diventeranno anche the world best rock band, insomma. Ma i titoli ormai si sprecano. Come semplice pure la numerazione degli album, no? Physical Graffiti. Però se la sono giocata con i Rolling Stones e i Who. Sì. Dai, bisogna dirlo. Questo sì, anche se hanno avuto non una carriera così lunga, perché dal 68 fino all'80, sì. Cioè poco più di 12 anni. Questo può essere inteso come un loro testamento, perché vorrei ricordare tipo una canzone, Kashmir. Gianni è Kashmir, Kashmir, Kashmir. Cioè, non me lo dite poi così, perché ti ripeto, evochi di nuovo le mie esperienze di oggi, poi mi guardi con questi occhioni da cucciolino. A me piace parlare delle Zeppelin, perché sono bravi. Dicevamo che si stanno avviando verso lo scioglimento, che avviene nel 1980, con la morte del batterista, sì. E come capita con tutti i grandi gruppi che hanno fatto la storia, quando uno dei componenti viene a mancare, il è quasi automatico, no? Che... E buon Bonham, perché batterista storico della band, insomma, ha lasciato veramente un vuoto alla musica in genere, perché era una macchina, secondo un me. Vuoto di 3 metri poi messo la batteria per registrare. E non è stato semplice nemmeno fargli suonare tutto l'album così. Però da Physical Graffiti volevo ascoltare questo pezzone senza tempo, ossia Kashmir. E poi ci andiamo ad ascoltare Houses of the Holy. torniamo live and loud, ancora con i Led Zeppelin, ancora con Metal Zone, Amon e Davide. Davide, allora Pit mi piace di più. Mi piace Pit. Allora Amon e Pit. Questo periodo di moda dove stanno tutti al Pitti. No, dai. No, dai. Volevo chiederti, hai viaggiato abbastanza nelle sonorità dei Led Zeppelin con me? E chiaramente converrai, come converranno un po' i nostri radioascoltatori, che anche se non parliamo di metal in un certo senso esplicito, sì, insomma, noi abbiamo ascoltato dei pezzi che con il metal abbiamo riscontrato tanto. E non solo, perché qui si parlava di hard rock, si parlava di Rage Against the Machine, si parlava di Guns N' Roses. Perché? Sì, ma infatti tipo, tu prendi Kashmir. Kashmir è stato ripreso dai Rage Against the Machine, lo troviamo nella sigla finale del film Matrix. È molto simile. Sì, no, no, la parte iniziale è quella, poi loro ci hanno messo la variante col basso. Però la cosa che ho notato in tutti gli album è che, cioè, alla fine abbiamo notato insieme, è questa sperimentazione, questo cambiamento man mano ogni album, anche se cambia soltanto una lineetta vicino al, per quanto riguarda tutti e quattro gli album dei Led Zeppelin, 1, 2, 3, 4, alla fine ci sta un continuo cambiamento, una continua evoluzione, addirittura in quest'ultimo qua ci sta una sorta di similitudine pure con i Guns N' Roses, no? Sì. Stavamo, che è un paradosso, però alla fine sono i Guns che hanno copiato da loro. Non per niente è stato definito uno dei migliori gruppi, se non il gruppo che ha influenzato di più negli anni 70. Sta cosa però, insomma, del fatto che loro erano così tanto venerati, divinizzati, non andava tanto bene, perché hanno perso un po' i loro limiti. Che succede? Rilasciano un nuovo album. Questo nuovo album si chiamerà Presence. Sarà un album in cui proprio Plant soffre di un incidente, quindi si rompe l'anca, quindi si fa malissimo, e viene salvata anche sua moglie, insomma fa un incidente assurdo, e decide di scrivere a Malibu questo nuovo album. Sarà un album che verrà criticato tantissimo, perché è proprio l'emblema degli eccessi della band. Jimmy Page comincia ad usare l'eroina, quindi qua si parla veramente di fatti attestati, anche se Jimmy Page ha sempre negato di aver fatto uso di droghe. Vabbè, ma in quegli anni mica potevi fare come fa Vasco. Che questa abitudine però si riflette, ahimè, sugli altri componenti della band, perché cominciano a farne abuso anche loro. Si fanno malissimo, non fanno un tour nel 1976, rilasciano però questo album che noi ci andiamo ad ascoltare, diventerà un album di platino, però verrà messo in secondo piano questa cosa, proprio dal fatto che stanno andando verso una direzione che tu poi prima abbiamo un pochino anticipato, sia proprio con la scomparsa del batterista. Come muore il batterista? Ci arriviamo tra poco, ci arriviamo nell'ultimo break. Ci andiamo ad ascoltare, cominciamo ad ascoltare Nobody's Fault But Mine, Led Zeppelin, Metal Zone. Thank you. this fob of mine. For me. Royal Orleans, ci siamo. Ci siamo, Royal Orleans, Led Zeppelin. anni che hanno influenzato in un modo incredibile la musica che ascoltiamo tutt'oggi. L'hanno anche rivoluzionata veramente tantissimo. Sì, l'abbiamo notato comunque le trasformazioni degli album, come sperimentavano un pochettino, come già vedemmo l'altra volta pure i Pink Floyd e tutto, sì. Ma i Led Zeppelin secondo me fanno capitolo a parte perché sono più duri, quindi iniziano a toccare quel heavy metal che all'epoca ancora non era stato esplorato. E poi ci butti la vena folcloristica dentro, no? Ci metti un po' di blues. Alla fine notavamo delle similitudini, no? Insieme l'abbiamo visto con i Red Hot Chili Peppers, che alla fine è funk, quindi ci sta proprio una... E la madre, secondo me, la musica dei Led Zeppelin è veramente la madre del rock che abbiamo poi assaggiato negli anni 80. E assaggiamo ancora l'ultimo brano, ringraziando Salamandra, ringraziando tutti, ringraziando la Prologo, ringraziando voi che stasera siete stati tantissimi. Io vi voglio ragazzi, un sacco di bene per questo spin-off delle Zeppelin con me e Davide Viola. Ti piace spin-off? Sì, mi piace perché allora, in pratica, questa regola che voi avete messo nella radio che non si fuma è bellissima. No, è una regola doverosa. Mi ha colto impreparato perché io sono venuto convinto, ho portato il caffè perché si porta il caffè. Diceva De Crescenzo, il caffè è la scusa per dire ad un amico che gli vuoi bene e tutto, ma soprattutto per fumare la sigaretta. Sono venuto con quell'intento e no, è vietato non fumare. Non ho ancora assolto questo mio desiderio. Ogni volta che tu dici spin-off mi viene in mente un pochettino qualche cosa di simile. Dai, però promettiamolo ma seriamente, un altro spin-off qualche settimana a venire. Cosa ci proponi? Te l'ho detto, per me abbiamo toccato i Led Zeppelin. Io andrei o su qualcosa di più soft. Ma non quindi... dirlo, non dirlo, pensalo ma non no, dirlo. Non dirlo, non dirlo. Non dirlo, andrei o su qualcosa di più soft, quindi andiamo verso vene swing e tutto. Oppure restiamo nello stesso tema e facciamo qualche cosa più di impatto, qualcosa più deep impatto, no? Quindi possiamo prendere due strade. Allora, però io sto aspettando come il pane di fare una puntata sui Guns N' Roses, perché sono veramente... Ma ci vuole un trittico, là ci vuole un trittico serio, secondo me. Ma i Guns N' Roses è come se tu parlassi di Led Zeppelin, di Pink Floyd, parlassi di... anche un pochettino di Dire Straits, perché ci sta un mix di tutto e poi è la musica che noi, perlomeno io, che sono un pochettino più grande di te, ho masticato, su cui ci ho passato le serate lì a studiare i pezzi, quando non esisteva ancora internet, come diciamolo prima. Che oggi che è tutto semplice adesso. Sono tutto musicista, no? Oggi ti mettono a internet, accordi, tabulato, fatela solo, ma che ne sapete voi di quando si stava vicino alle musicassette oppure vicino ai giradischi a sentire nota per nota, a fare questo ear training, no? L'allenamento dell'orecchio per studiare i pezzi. E Gianni, mi devi lanciare quest'ultimo pezzo perché... Sì. Lo lanciamo subito. Che lo desidero, ma più che altro che così spinoffiamo insieme fuori. Allora, ascoltiamo e vi salutiamo dalla Metal Zone. La chiudiamo, direi di action. Andiamo a fumare fuori noi. Andiamo ad ascoltare Hot Dog, Led Zeppelin. Un saluto da Amon e Davide Pitt. We'll be right back. before. I took a girl of 17, a little late these days it seems, but they said never use what I was waiting for. I took her word, I took it all, beneath the sign that said you all, she left angels hanging around for more. Radioactivity.